Europa 24. Borse europee positive con Milano Piazza Migliore, sostenuta dalle banche a poche ore dalla diffusione degli esiti degli stress test prevista questa sera alle 22. Ormai è questione di ore. Stasera alle 22 l'EBA pubblicherà le pagelle degli stress test condotti sulle 53 principali banche europee. Una prova sotto sforzo, prospettica, teorica e senza automatiche richieste di ricapitalizzazione da parte della vigilanza, cioè la BCE. Ma senz'altro da lunedì i mercati ne terranno conto. Per mesi si è esaminato lo stato di salute delle principali banche europee per valutarne la capacità di resistenza in caso di shock, cioè nel caso, si spera ipotetico, in cui di qui al 2018 dovesse crollare il PIL europeo insieme al mercato immobiliare e alla fiducia dei risparmiatori. Non ci saranno promossi e bocciati, ma buona parte degli esaminati dovrebbe superare il test, cioè le soglie di capitale considerate di sicurezza. Una manciata di banche è a rischio e ogni paese ha le sue preoccupazioni. L'Italia già da tempo fa i conti con MPS, destinata a uscire malconcia. In Germania si guarda Deutsche Bank, a Londra Barclays e in Francia è BNP Paribas. Tra 9 ore la verità. Marco Ferrando, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La disoccupazione a giugno resta stabile a poco più del 10% nella zona euro e all'8,6% nella UE28. È il tasso più basso da luglio 2011 per la zona euro e da marzo 2009 per la UE28, fa sapere Eurostat. Scende invece leggermente la disoccupazione giovanile e prosegue il rialzo dell'inflazione che dallo 0,1% di giugno raggiunge lo 0,2% a luglio. Per la Commissione europea sono illegali gli aiuti pubblici concessi dalla regione Sardegna a compagnie aeree selezionate che lavorano negli aeroporti di Cagliari ed Olbia. Gli aiuti di Stato hanno dato loro un vantaggio sleale che deve ora essere rimborsato. Nessun problema invece per gli aeroporti sardi. La Commissione ha concluso che questi non hanno ricevuto alcun aiuto statale poiché il finanziamento pubblico è stato interamente trasferito alle compagnie aeree. L'Unione Europea deve impegnarsi per la tutela del grano europeo e questo è il grido di migliaia di agricoltori radunati oggi in alcune delle più importanti piazze italiane per dire no alla speculazione sul prezzo del grano, diminuito sempre più da inizio 2016. Come spiega il presidente Coldiretti Roberto Moncalvo al microfono di Daniela Brunzo. Noi abbiamo bisogno che la Commissione Europea dia dei segnali più forti per tutti quei prodotti che in questo momento stanno subendo situazioni di difficoltà, di prezzi bassissimi al di sotto dei costi di produzione. Dobbiamo fare in modo di giocare una partita a parità di regole, quindi pretendere che ciò che entra sia figlio dello stesso nostro sistema di qualità e di controlli e soprattutto l'Unione Europea deve costruire una politica di sostegni ancora più forte di quello che ha proposto in queste settimane. È stato proposto un primo piano da 500 milioni di euro per la zootecnia e per l'ortofrutta, sicuramente un passo in avanti ma non sufficiente ancora a gestire la situazione di difficoltà. Manca una normativa ad hoc che difenda il grano italiano e il grano europeo. Oggi mancano azioni a livello europeo più forti che riguardano il grano ma che riguardano la tutela di tutte le nostre produzioni, a partire dalle regole. Noi non possiamo continuare ad importare da paesi terzi prodotti che costano poco, perché questo si traduce in concorrenza sleale per i nostri produttori ma anche in rischi per la salute dei nostri consumatori. È tutto per Europa 24, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.